Un guerriero va a te veloce e dritto come una freccia lanciata nel sole. È Uncas, mio figlio. Di lui di essere paziente e dà a me una rapida morte, perché loro sono tutti là, meno uno. Io, Chingachgook, l'ultimo dei Mohicani. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله love.

We'll be right back. We'll be right back. Who is Elvis? day. Thank you. Introduce you to the virtual experience.